30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Sono 5 i cadaveri raccolti su un gommone carico di 57 persone dalla Guardia Costiera nel Canale di Sicilia. L'intervento è avvenuto sabato scorso in acque di competenza libica. Il giorno successivo, in poco più di 24 ore, a Lampedusa sono sbarcati oltre 270 immigrati. L'isola dunque vive nuovamente ore di ansia, temendo una nuova ondata migratoria dal Nord Africa, come accaduto già nell'estate del 2011. Buonasera, benvenuti al nuovo appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque torniamo a parlare di immigrazione clandestina, ma non solo, torniamo a parlare di un fenomeno che possiamo ben dire abbia segnato gli ultimi 20 anni della storia italiana, tra una crisi, un allarme, un'allerta e una gestione della politica che naturalmente è cambiata negli anni, ma che ha sempre avuto nel corso di questi 2 decenni il grande fattore dell'emergenza, della clandestinità, come quasi cartina tornasole anche di un modo di percepire e di gestire questo grande fenomeno storico. Ne parliamo con Asher Colombo, che è professore associato presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Bologna, che insegna sociologia e che da oltre un decennio si occupa di migrazione. Buonasera, professor Colombo. Buonasera a voi. Allora, dicevo che lei in realtà da più di un decennio, già nel 98, pubblicazioni sui movimenti, diciamo, l'attività dei clandestini algerini a Milano, in altre città, in Emilia. La prima domanda che le vorrei fare: questi segnali drammatici, visto che riguardano la morte di 5 persone e non dimentichiamolo la vita perigliosa, drammatica di quello che è comunque un viaggio su un barcone, su un gommone nel Canale di Sicilia, sembra quasi ogni volta riportare il film al primo fotogramma, eppure 20 anni sono passati. Allora, professor Colombo, gli sbarchi riprendono, è la solita storia dell'immigrazione italiana oppure no? Ma sì, in parte sì, purtroppo questi eventi tragici costituiscono ormai appunto da molti anni una costante delle nostre migrazioni, però va anche detto che si tratta di un fenomeno che ha sempre avuto, costantemente avuto proporzioni comparativamente ridotte, cioè comparativamente rispetto al, non solo in generale alla presenza straniera in Italia, ma persino rispetto alla presenza irregolare, cioè noi sappiamo che solo una parte, in genere una parte modesta, di gran lunga inferiore alla metà, di gran lunga inferiore a un quarto degli ingressi irregolari che avvengono nel nostro paese seguono questo canale, cioè degli sbarchi in violazione delle norme sugli ingressi e deludendo i controlli di frontiera, costituiscono, diciamo, dal punto di vista delle dimensioni un rivolo che ha una sua cadenza, cioè che è fortemente legato alla stagione, cioè alla ripresa della primavera, dell'estate, e tipicamente si interrompe invece durante l'inverno. Naturalmente il caso dell'anno scorso era un caso particolare, del tutto anomalo, ma che avveniva dopo un lungo periodo che è durato 3 o 4 anni di forte calo degli sbarchi irregolari. Ecco, il 2011 è stato un anno particolare per tanti versi. Nel Mediterraneo del Sud basterà sintetizzare, ricordare come di fatto nell'autunno del 2010, partendo dalla Tunisia, tutti gli stati appunto costieri, dall'Egitto alla Tunisia, alla Libia, uno dopo l'altro, sono entrati in fibrillazioni che in alcuni casi, come in quello libico, sono diventate vere e proprie guerre. Quindi ci sono state delle spinte particolari. Ma a proposito di Libia, varrà forse la pena ricordare che ancora poco prima che la coalizione occidentale attaccasse Gheddafi usava lo strumento della migrazione come minaccia, diceva: aprirò le frontiere, riverserò su di voi un'ondata di poveracci, sostanzialmente, perché questo era il suo messaggio, che diceva sarete invasi. Poi Gheddafi ha fatto appunto la fine che sappiamo, la guerra è finita, un nuovo governo che si va costruendo. Questa ondata di fatto non è mai arrivata o sta per arrivare? No, beh, diciamo le vicende hanno dimostrato che l'ondata non è arrivata neanche quando il tappo è saltato, diciamo così. L'Italia ha avuto nel 2011 un livello di sbarchi irregolari sulle nostre coste molto elevato, però come dire, non superiore a quello che aveva avuto anche in anni precedenti, negli anni 90 per esempio, e tutto sommato di dimensioni modeste. I paesi che erano al confine con la Libia hanno avuto ingressi irregolari superiori ai 200-300 mila appunto persone, mentre nel nostro caso ci si è attestati attorno alle 50 mila. Sono comunque numeri rilevanti, ma non possono essere definite ondate. Ricordo che nei giorni immediatamente successivi all'inizio della guerra civile in Libia venivano, come dire, evocate cifre di gran lunga superiori, 500 mila, 1 milione, persino 1,5 milioni, ma sono cifre, come dire, che non hanno mai avuto alcun riscontro, né che ne avranno, insomma. Ecco, ripeto, cifre che restano nelle minacce. In che modo influisce in termine opposto questo, il fattore, diciamo, crisi economica? Perché il 2011 è anche l'anno appunto delle grandi difficoltà. In che modo il fenomeno migratorio percepisce, fa proprio, e in che tempi, queste situazioni economiche nell'Europa del Sud? No, io credo che il fattore economico abbia scarsa influenza sugli sbarchi clandestini, diciamo in violazione appunto delle norme. Qualche influenza però ce la può avere sull'immigrazione, anche sull'immigrazione irregolare da lavoro, e infatti molti osservatori, molti studiosi, ma già da qualche anno in realtà, hanno osservato un rallentamento della crescita delle migrazioni irregolari e poi un declino, un calo lieve, ma comunque un calo. A questo va aggiunto anche il fatto che ormai anche i paesi dell'Europa mediterranea, tra cui l'Italia, in questi paesi una quota rilevante degli ingressi è ancora dovuta a motivi di lavoro, ma una quota sempre più rilevante è invece riconducibile ai ricongiungimenti familiari, e quindi che sono in larga misura svincolati, no, da fattori legati alla crisi economica. Ma certo, poi sono famiglie che si ricompongono, esatto. Insomma, diciamo l'evoluzione, la maturità anche dei fenomeni migratori. A questo proposito, anche in una battuta, Asher Colombo ha pubblicato recentemente uno studio che si chiama Fuori controllo, miti e realtà dell'immigrazione, pubblicato da Il Mulino. Questo per ribadire che il fatto che la migrazione sia un fenomeno fuori controllo fa parte di questi miti? Direi di sì, direi che fa parte di questi miti. In Italia l'immigrazione irregolare è stata sostanzialmente controllata, non senza naturalmente dei problemi, ma non superiori a quelli che hanno avuto altri paesi di immigrazione, e questo controllo è avvenuto soprattutto grazie ai processi di regolarizzazione, e cioè di trasferimento di una parte cospicua degli immigrati, delle presenze irregolari in presenze regolari, un processo che ha funzionato e che ha costituito un sistema migratorio, e l'attuale situazione della presenza straniera in Italia, che come diceva lei appunto è caratterizzata da livelli relativamente elevati di maturità, un elemento che è sempre più visibile anche nelle politiche del governo, per esempio nell'attenzione che il governo ora ha, diciamo nello spostamento del focus dal momento dell'ingresso anche simbolicamente dal contratto di soggiorno ai recenti accordi di integrazione. Cioè c'è sempre più l'idea che abbiamo a che fare sempre meno con immigrati e sempre più con una presenza straniera che appunto va gestita, va regolata, va governata. E che fa parte in maniera permanente del disegno, insomma, dell'immagine, della sostanza del nostro paese. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera e benvenuti al nostro appuntamento con 30 minuti in cronaca. Parliamo di immigrazione, parliamo, come dire, stimolati da un fatto di cronaca drammatico, ma cercando di andare oltre e di ricordare invece, come ci stia spiegando questa sera il professor Asher Colombo, che in realtà siamo di fronte a fenomeni che sono cambiati, che non per questo purtroppo appunto prescindono da eventi drammatici, ma che nella grande massa raccontano un'Italia che cambia e che sta anche cambiando le sue reazioni dunque al grande flusso della migrazione. Io ripartirei proprio dai permessi di soggiorno, che sono in qualche modo rappresentati, almeno ai miei occhi sono rappresentati per esempio dalle lunghe code qui a Milano, nelle questure, la questura centrale, e con la sensazione che progressivamente però si facciano meno lunghe, meno drammatiche, meno come dire, anche rabbiose di quanto non fossero anni fa, quando chi ha memoria di queste cose ricorda anche dei veri e propri assalti per ottenere dei permessi che non arrivavano. Allora, professor Colombo, come cambia su questo fronte? Ma proprio su questo è in corso una ricerca che stiamo conducendo all'Istituto Cattaneo di Bologna e all'Istituto Fieri di Torino, proprio sulla gestione amministrativa delle pratiche burocratiche legate all'amministrazione, in particolare i rilasci e i rinnovi dei permessi di soggiorno. E qui abbiamo in qualche modo osservato grandi cambiamenti. Uno ha a che fare con un miglioramento, un forte miglioramento, quindi anche una riduzione dei tempi di attesa del rilascio e del rinnovo dei permessi di soggiorno che è avvenuto negli ultimi anni. Però ci sono altri due cambiamenti importanti che tendiamo a trascurare. Uno è legato al fatto che una quota molto cospicua degli stranieri non ha più bisogno del rinnovo del permesso di soggiorno, perché dopo l'ingresso della Romania nell'Unione Europea, e ricordiamoci che i cittadini romeni costituiscono un quarto, sono più di quasi un milione, un quarto di tutta la presenza straniera in Italia. E l'altro cambiamento di cui ci siamo anche noi accorti da poco, perché non c'era affatto chiaro, è la forte crescita che è avvenuta negli ultimi 2-3 anni della quota di stranieri che hanno un permesso di soggiorno a tempo indeterminato e che quindi non dovranno più rinnovarlo. Nel 2004 questa quota era attorno al 10%, era modestissima. Nel 2011 gli ultimi dati che ho visto dell'Istat ci dicono che poco meno della metà, più del 48% degli stranieri che devono avere il permesso di soggiorno hanno un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Questo cambia radicalmente la situazione e è un segnale del sempre più del sempre maggiore stabilità e della sempre maggiore, come dire, strutturalità della presenza straniera in Italia. Quindi più diciamo regolari nei flussi, meno un quarto, perché ovviamente l'ingresso a pieno titolo 2007 della Romania nell'Unione Europea ha di fatto trasferito un intero blocco di migrazione dalla migrazione alla cittadinanza europea, ma anche una trasformazione progressiva che lei ci diceva avviene tra il 2004 ed oggi, quindi in pieno governo Bossi-Fini, per intenderci. Anche questo forse fa un po' parte dei miti per cui certe politiche, in particolare del precedente governo, fossero diciamo in opposizione a questa trasformazione, o è avvenuta nonostante la politica? Ma diciamo che ci sono alcuni aspetti su cui la politica ha una notevole rilevanza, per esempio sul focus, sulla possibilità di, come dire, focalizzare l'attenzione sui controlli piuttosto che sull'integrazione. Dopodiché però tutti i dati ci dicono che il processo di strutturazione della presenza straniera in Italia è largamente indipendente, diciamo così, dal clima politico e anche dal colore dei governi. È proprio paradossale appunto che questo processo di strutturazione, di progressiva strutturazione, sia iniziato prima naturalmente dell'introduzione della legge Bossi-Fini e sia continuato anche dopo, nonostante che questa legge avesse naturalmente una sua forte centralità sul problema dei controlli e invece attribuisse scarsa importanza al tema dell'integrazione, diciamo così, no? Ecco, professor Colombo, trovo molto interessante. Lei dice di fatto nonostante questo, ma allora qual è il fattore che produce questa trasformazione nonostante i colori dei governi? Ma i fattori che producono questa trasformazione sono in gran parte fattori legati all'economia, alla strutturazione del nostro mercato del lavoro. C'è un settore del nostro mercato del lavoro che richiede forza lavoro straniera per varie ragioni. C'è un fattore legato al funzionamento del nostro welfare. Il nostro welfare ha bisogno, le famiglie hanno bisogno dell'attività di servizio fornita dalle cosiddette colf e dalle badanti. Faccio notare che i dati che ho visto sulla disoccupazione, sull'andamento della disoccupazione, mostrano che le donne immigrate sono state scarsamente colpite dalla crisi. Questo perché è, come dire, una domanda che non varia, quella di appunto servizi domestici privati alle famiglie. E poi c'è anche un ruolo diciamo così, delle istituzioni sovranazionali dell'Unione Europea. Gran parte del cambiamento che ho detto prima è riconducibile all'introduzione di normative europee che hanno incoraggiato fortemente appunto l'uso e l'affermazione del permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Un'Europa dunque che preme, che di fatto segna anche il corso della trasformazione, una necessità che non cambia. Lei ha citato chiaramente, direi, il mondo delle badanti, che sono sempre più indispensabili anche dai nostri comportamenti sociali, dalle trasformazioni delle famiglie, dalle esigenze di lavoro. E allora mi piacerebbe proprio ragionare ancora un paio di minuti su questo aspetto. Lo scorso anno ci fu un impressionante e rapidissimo dietro front, un blocco del decreto flussi, una riapertura istantanea proprio sul tema delle badanti che passò di fatto senza che nessuno battesse ciglio. Oggi che cosa accade? Nel 2012 diciamo l'indicazione lo scorso anno era: non saranno più necessari i decreti flussi, non sarà più necessario in qualche modo l'intervento straordinario. Siamo arrivati alla maturità del fenomeno immigrazione nel nostro paese? Ma come ha detto anche ieri o l'altro ieri il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in realtà il nostro Paese ha ancora senza dubbio bisogno di forza lavoro straniera, e ha bisogno che questa forza lavoro straniera entri con i canali, diciamo così, regolari. E questo è stato detto chiaramente, e non credo che ci saranno cambiamenti da questo punto di vista. Il cambiamento rilevante è avvenuto invece nell'importanza che il governo sembra dare alla stabilizzazione. Cambiamento molto rilevante, che è quello che è stato da poco proposto, dell'allungamento della validità della durata dei permessi di soggiorno, avrà forti effetti sia sulla vita degli stranieri sia sul funzionamento delle nostre burocrazie, perché le questure erano letteralmente, come dire, ingolfate da questo lavoro di continuo rinnovo dei permessi di soggiorno. Ricordiamoci che i permessi di soggiorno per motivi di lavoro sono rinnovati ogni anno, in qualche caso più fortunato ogni 2 anni, quelli per disoccupazione ogni 6 mesi. Questo costringeva alla gestione di una massa molto rilevante di carta, insomma, che invece, se passerà questa riforma, dovrebbe ridursi radicalmente. E compiere così magari un altro passo. Io ringrazio Asher Colombo, lo ricordo, abbiamo citato tra i suoi lavori Fuori controllo con un bel punto interrogativo, è uno studio sui miti, la realtà dell'immigrazione in Italia, che il professor Colombo ha pubblicato per il Mulino. Insomma, una trasformazione, siamo partiti dall'emergenza, l'emergenza in qualche modo è uguale a se stessa, ma il fenomeno è cambiato, cambia continuamente, e forse proprio in questa fase storica raggiunge un momento di maturità, un momento che avvicina di fatto anche l'Italia a altri paesi europei. Grazie dunque al professor Colombo, grazie a voi per essere stati con noi questa sera. L'appuntamento con 30 minuti in cronaca è per sabato prossimo alle 19:30. Come sempre, un saluto e un ottimo fine settimana a tutti voi.